Radio 24 Reportage. Dal jihad alle gang, il lato oscuro della Svezia, di Giampaolo Musumeci e Antonio Talia. Moments after the impact. The truck smashed into a famous Stockholm department store. L'attentato di giovedì 6 aprile a Stoccolma, dove un uomo alla guida di un camion si è lanciato sulla folla, uccidendo 4 persone e ferendone 15, non rappresenta il primo caso di terrorismo in Svezia. Nel dicembre 2010, un cittadino svedese di origine irachena fa esplodere 2 bombe nel centro della capitale, rimanendo ucciso e ferendo 2 persone. Mentre nello stesso periodo a Malmo si muove il terrorista razzista Peter Mangs, un lupo solitario che spara contro rifugiati e immigrati. Ed è sempre da Malmo che parte Osama Krayem, 23 anni, un jihadista coinvolto negli attentati di Bruxelles dello scorso anno. Nella società svedese, il modello di accoglienza e tolleranza emergono sotto traccia tensioni razziali, spettri di jihadismo e criminalità organizzata. Henrik Melius è il presidente di Spiritus Mundi, un'organizzazione non governativa pluriconfessionale che a Malmo lavora con giovani di ogni estrazione per tenerli lontani dalla radicalizzazione, che si tratti di jihadismo o di gang di strada. You know, we're a frontline organization for prevention work, and you know what we have. Siamo un'organizzazione che lavora in prima linea e quello che abbiamo imparato a fare nel corso degli anni in tanti paesi differenti è sviluppare innovativi metodi pedagogici per coinvolgere giovani, che in più devono essere divertenti. Teniamo presente come la narrativa hollywoodiana sia stata imitata da Daesh per reclutare giovani. Il gioco impegna 2 squadre di ragazzi attorno a un tavolo, 2 civiltà che impiegano sia mezzi costruttivi come istruzione e sanità che distruttivi come terrorismo o sabotaggio in una specie di risico. Al termine della partita di Ayatuna Blocks, gli esperti dell'organizzazione analizzano la condotta di ogni giocatore per scoprire come aggressività e violenza, anche se apparentemente vincenti, portano la squadra alla sconfitta. And speaking of the Hollywood narrative, when a group of extremists, for instance, e a proposito di narrazione, è interessante vedere come quando un gruppo di giovani cade nella trappola dell'estremismo e va in Siria a combattere, esso si veda, e qui parlo di Star Wars, come i ribelli, i buoni, e mai come l'impero, cioè il male. Talking about Star Wars. They are the rebels, they are not the empire. Interessante anche la dinamica psicologica dei giocatori che spesso si fanno prendere dall'emotività e con leggerezza durante il gioco sganciano bombe nucleari sulla squadra avversaria. Ma mentre a Spiritus Mundi si lavora su questo laboratorio antiradicalizzazione, Malmo vive un'altra minaccia. 8 attacchi con granate nel 2014, 48 nel 2015, 52 nel 2016 e 8 nei primi mesi del 2017. Sempre dall'inizio dell'anno, tra agguati con armi da fuoco e bombe a mano, sono state uccise 11 persone e ferite 17. La Svezia, ma in particolare la città di Malmo, fronteggia un problema crescente, lo scontro fra gang criminali di giovani, spesso minorenni, spesso legati allo spaccio di droga. Le armi usate sono pistole, a volte mitragliatori, sempre più spesso bombe a mano provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia. Joachim Palmqvist è un giornalista di cronaca nera del quotidiano Sydsvenskan, che lavora a Malmo da anni, autore del libro Mafia War, che racconta la storia delle gang in Svezia. Lo scrittore fotografa così la situazione, almeno 200 membri attivi, tra le 5 e le 10 gang o network operativi sulla sola Malmo. The current gang culture in Malmo and the surrounding area has developed over a long time, 20 years. For me, what is happening now, what we see around... L'attuale cultura delle gang a Malmo, nelle aree circostanti, si è sviluppata tempo fa, almeno 20 anni fa. Quella che vediamo adesso è la terza generazione di crimine organizzato. Per tratteggiare il profilo tipico del gangster vi darò un esempio concreto. Una famiglia con 3 ragazzi. La madre lavora all'ospedale di Malmo, il padre ha precedenti come ladro e truffatore. Tutti e tre i figli, 15, 17, 19 anni, sono criminali abituali. Per esempio, il più giovane adesso è in carcere per aver tentato di uccidere il proprietario di un'auto che stava cercando di rubare. Il 17enne è dentro per traffico di droga e armi. Tutti vengono dall'Indengen, una zona ad alta densità abitativa, tessuto operaio, con scuole non buone, brutti voti a scuola, scorribande criminali insieme fin da piccoli e uso di cannabis. Il problema è così serio che negli ultimi mesi il capo della polizia di Malmö è stato sostituito 3 volte, che le forze dell'ordine si sono affidate a pubblici annunci per chiedere aiuto alla cittadinanza. Anche se gli episodi violenti sono quasi tutti regolamenti di contri o scontri per futili motivi, in una parte della popolazione cresce la paura. Goran Manson, capo dell'unità artificieri svedese, un veterano di Iraq e Bosnia, si dice preoccupato perché spesso si trovano ordigni inesplosi con rischi altissimi. This is free from explosives, so it's safe to move and use. Questa granata è priva di esplosivo, quindi possiamo maneggiarla tranquillamente. Le usiamo anche per training. L'abbiamo trovata nell'area di Malmo. Abbiamo diffuso avvertimenti alla popolazione. Se vedete una granata così per terra, non prendetela, perché abbiamo avuto 2 casi in cui 2 bambini hanno trovato per terra delle granate come queste. Tra i fattori che spiegano l'alta disponibilità di armi, la facilità con cui vengono contrabbandati in Svezia, specie da Copenaghen attraverso il lungo ponte, e una debolezza legislativa che non punisce efficacemente chi ha con sé armi senza licenza. All'Indegen, quartiere che è tra le cosiddette no-go zone, aree ad alta tensione come anche Rosengard, una giovane rifugiata siriana confida i suoi timori. Inas, a 20 anni e da 3 anni a Malmo, in fuga da Damasco, vive con la madre e il fratello al 6° piano di un palazzo di un'area popolare. 6 mesi fa, racconta la giovane, c'è stato un incidente grave qui nella zona. Un giovane ha ucciso un ragazzo in auto. La polizia è venuta a chiederci cosa avevamo visto. Hanno chiuso l'intera zona. Il problema era legato alla droga. Ma qui, continua la ragazza, ogni mese vedo la polizia sotto casa. Di giorno, confessa, va bene, ma di notte, dopo le 7 o le 8 di sera, è pericoloso. Perché si uccidono tra loro e quindi la gente preferisce restare a casa e non vuole problemi. Akala, quartiere periferico di Stoccolma Sud, insieme a Rinkeby e Tensta, è considerato una no-go zone, zona a rischio violenza e reati. Edilizia popolare, tassi di disoccupazione più alti della media svedese, una tradizionale alta presenza di immigrati, oramai la seconda generazione e 15 cittadini svedesi, ma anche nuovi rifugiati. Le cronache restituiscono una fotografia di una gioventù spesso problematica. Qui, dove la natura svedese irrompe tra le case, ai margini di un gigantesco parco, c'è la sede di Akala Run, una squadra podistica fondata da Martin Besberg. Ci sono ragazzi e ragazze, atleti promettenti il cui sogno è l'Olimpiade, e ci sono anche ragazzi che hanno vissuto storie drammatiche e violente. Bilal, svedese di origine marocchina, racconta di essere arrivato nel quartiere da piccolo. Figlio, stai attento ai ragazzi qui perché hanno coltelli e pistole. Si è confrontato con la violenza, Bilal, ha avuto anche un passato nella droga, ma la corsa e il team di atleti di Akala lo ha salvato, letteralmente, perché gli ha permesso di tornare a scuola e trovare un lavoro e smettere infine con la droga. E ora, come dice lui stesso, quando corre, pensa al vecchio Bilal, al Bilal bimbo, felice, che correva senza pensieri. Ma poi sottolinea, sì, ci sono problemi nel quartiere, ma non tratteggiamolo come totalmente negativo, non dimentichiamo le forze positive come Akala Run. Tra gli atleti c'è anche Abdel Rakim, in Svezia da 2 anni e mezzo, in fuga dall'Etiopia, in particolare dalla regione dell'Ogaden, e che mentre corre ricorda con dolore la perdita della famiglia e degli amici uccisi dal regime di Addis Abeba. In Svezia ho avuto tutto quello che mi era negato nel mio paese, la pace e i diritti. Ora, quando corro, quando sento i muscoli delle gambe che mi fanno male, penso, e quando penso ricordo, e i ricordi mi fanno male, perché penso a cosa succede nella mia città. E un giorno taglierò il traguardo di una gara, e avrò la bandiera dell'Ogaden, e dirò al mondo cosa sta accadendo lì. Cup, Martin Vesberg, il motore della squadra, sottolinea come lo sport sia salutare e allontani dal rischio della criminalità e delle gang, ma come al tempo stesso la percentuale di ragazzi e ragazzini che non fa sport sia superiore tra gli immigrati. Spesso i ragazzini immigrati smettono di praticare sport. E infine sottolinea come la corsa sia un ottimo modo per conoscere gente nuova, che lavora e che magari un giorno ti darà proprio un lavoro. Ecco perché la sua Akala Run ha le gambe lunghe e crediamo andrà lontano. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.